con l'autrice e attrice Paola Tarantino e la regista Sala Ercoli per parlare dello spettacolo Io la creatura, Mary Shelley, che sarà a Roma al Teatro di Documenti dal 24 al 27 gennaio 2019. Ben trovate. Grazie, Cominciamo descrivendo questo lavoro. Raccontiamolo per sommi capi. inciso io e poi vorrei lasciare la parola a Sara, in quanto tutto questo è successo grazie alla possibilità di partecipare a un festival che mi ha levati, che è ad Arte, a Calzata, e infatti ti ricordi ci siamo incontrati anche lì, e Certo. poi insomma ha preso più sostanza perché avevo piacere di partecipare con questo progetto che all'epoca era semplicemente uno studio e un lavoro iniziale di scrittura, in quanto appunto l'ho scritto moi, l'ho scritto io e ho chiesto a Sara, con la quale abbiamo avuto prima di rincontrarci ad Arte, occasione di conoscerci, e poi ci siamo rincontrate ad Arte, entrambe partecipanti al festival, e da lì è nata una buona vibrazione per cui mentre io ho continuato a lavorare al testo dello spettacolo, poi ho proposto a lei di farmi la regia. Niente, questa è la breve storia tecnica di come sono andati i fatti. Il motivo per cui esiste questo spettacolo è perché in realtà Mary è un personaggio, una donna che è arrivata nel mio immaginario di tante donne che ho sempre amato, da un punto di vista sia letterario, culturale, artistico, in seconda istanza, perché ti confesso che io il Frankenstein l'ho letto in tarda età, un po' come si prende tardi la patente guida, e perché ho sempre avuto molta paura a livello inconscio di leggere questo Frankenstein, perché la mia cara mammina, che io amo tanto, quando era incinta di me, mi disse che il suo sogno, e quando lo raccontò, mi disse che il suo sogno ricorrente era che partorisse la creatura di Frankenstein. Da lì ho sempre avuto una grande fascinazione, ma soltanto 2 anni fa, esattamente poi, in maniera non casuale e coincidente, in cui appunto era il 200° della pubblicazione del Frankenstein, ho letto il Frankenstein, ma in pura coincidenza. E da lì è nato tutto quanto, e da lì è nato tutto, tutta la scrittura, tutto il mio, la mia ricerca biografica su lei come donna, su lei come autrice, su cosa realmente l'ha mossa poi, non soltanto come scrittura del Frankenstein, ma più a un livello artistico e di chi era lei come donna e promotrice di un certo tipo di approccio alla cultura femminile in un'epoca in cui la donna, insomma, artista è molto relativa ai primi dell'Ottocento. Quindi tutto questo per un lungo pippone introduttivo per dirti perché mi sono appassionata, e soprattutto perché è una donna che ha tanto da raccontare a noi oggi, al coraggio, alla determinazione, a realizzare il suo personale impossibile attraverso l'inchiostro, la carta e i suoi sogni anche più orrificanti, perché insomma è la madre del gotico, è la madre dell'horror, quindi più di questo non so, ha Sì. A inventato un genere. questo punto chiediamo anche a Sara qual è stato il tipo di lavoro registico. Sono un'ex emigrata, nel senso che ho passato 20 anni in Nord Europa, dove mi sono laureata con specializzazione in mimo contemporaneo, che è una cosa che poi nessuno sa che cos'è in realtà. È un teatro che nasce dall'impulso più che dalla parola e dal ragionamento. Quindi il lavoro registico su questo testo e su questo personaggio di cui mi sto innamorando sempre più è un misto tra un servire il testo in maniera classica, tradizionale, quindi lasciarlo andare a briglia sciolta laddove c'è un significato, e un contaminarlo invece con un linguaggio molto più tecnico e molto più aperto ai contrasti. Quello che sta accadendo in sala prove è il fatto che stiamo formando un caleidoscopio di momenti, immagini, mostri, traumi, ricordi piacevoli, momenti di passione, in una maniera frammentata che poi ha un senso come ha avuto la vita di questa donna, perché in realtà noi non è che stiamo qui a raccontare il mostro di Frankenstein, raccontiamo come com'è nato quella famosa notte in cui ubriachi come Cucuzzi e fatti di Laudano, Byron, il marito di Mary Shelley, lei si sfidarono a scrivere storie di fantasmi raccapriccianti. Però in realtà portiamo l'attenzione su chi era questa donna e quindi com'è che una ragazza di 19 anni ha scritto di un mostro orrendo, ma in un'opera che ha così tanti piani di lettura, perché c'è la paura del diverso, ci sono tutte le morti che lei ha avuto nella propria vita, ha perso 3 figli, sua madre è morta 10 giorni dopo averla data alla luce, insomma lei era piena di orrori. E anziché fermarsi all'analisi o fermarsi ad essere un tipo di donna che deve essere solo moglie o figlia o madre, lei si è fatta trapassare da questi orrori per non fermarsi mai e per dargli un senso creativo. Quindi il nostro sottotesto un po' romano è: guardate un po' questa con i traumi che ci ha fatto e voi che cosa ci fate? Ecco, ci stiamo divertendo molto. È vero, cioè, il momento è di grande passione. Per me è veramente una grandissima sfida. Vabbè, perdonami, ti stavo parlando sopra, Fede, vai, dimmi, dici. No, a questo punto, se ci sono dei riferimenti web per saperne di più su questo progetto. In questo momento c'è l'evento Facebook, la pagina la stiamo creando e poi ci sta il sito del Teatro dei Documenti, che è www.teatrodeidocumenti.it, in cui ci sono tutte le info in merito. Ci volete trovare sul web, su varie testate giornalistiche, tantissimo ovviamente Facebook, Instagram, io la creatura Mary Shelley, sia su Instagram che su Facebook. E allora ricordiamo l'appuntamento al Teatro di Documenti a Roma dal 24 al 27 gennaio 2019. Un saluto e un ringraziamento all'autrice e attrice Paola Tarantino e alla regista Sara Ercoli. Un abbraccio, in bocca al lupo, ci vediamo a teatro. Dai, vieni, ci sarà da ridere anche, venite.